24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Una persona si tocca il viso in media da 3 a 5 volte al minuto. Nel frattempo tocca maniglie, rubinetti e altre persone. Qual è il concetto principale da comunicare? Abbiamo isolato i malati e messo in quarantena chi riteniamo esposto al contagio. Ok, bene. Ecco, guarda, si trasmette così. Dobbiamo solo sapere in quale direzione va. Il primo giorno erano 2 persone, poi 4 e poi 16. In 3 mesi saranno 1 miliardo. Si adatta a noi prima di quanto noi ci adattiamo a lui. Perciò abbiamo un virus senza né protocollo terapeutico né vaccino finora. Era già in strada, stava già cominciando a entrare dalle finestre. Era un virus, un'epidemia. E quando hanno cominciato a evacuare le città, ormai era troppo tardi. Proprio ieri si sono riuniti di nuovo i ministri degli esteri europei per mettere a punto i sistemi di controllo per garantire la sicurezza sanitaria in Europa contro Ebola. È un ricercatore italiano, Riccardo Cortese, biologo molecolare, il padre del vaccino anti-Ebola. Ecco, dottor Cortese, nel 2007 lei ha lasciato un lavoro sicuro in una multinazionale per fondare Okairos, l'azienda che ha studiato e sta mettendo a punto il vaccino anti-Ebola. Kairos in greco significa momento opportuno, momento irripetibile. Come ha fatto a capirlo? Perché conoscevo molto bene il contesto in cui si sviluppano i vaccini. Ci mancava una cruciale componente per vaccini che non erano stati possibili fino ad ora, e quindi ho deciso di concentrarsi su quello. Mi può spiegare in parole semplici quali sono state le novità del suo approccio allo studio del virus e come il vaccino agisce sul virus? Le difese immunitarie consistono di 2 strategie. Una è quella di fare anticorpi, l'altra di quella di fare cellule che riconoscono il virus quando infetta. Il nostro vaccino fa entrambe le cose, mentre i vaccini tradizionali fanno solo la prima, cioè fanno solo gli anticorpi. Il virus dell'Ebola non può essere sconfitto soltanto con gli anticorpi. Senta, dottor Cortese, i serbatoi del virus Ebola sono stati individuati nello sperma anche dopo la scomparsa del virus dal sangue. C'è quindi un reale rischio di trasmissione sessuale? Guardi, ne so pochissimo si sa pochissimo su questi fatti, quindi preferisco lasciare agli esperti di trasmissione questo tipo di domanda. Quindi non si esprime su questo. Ebola è un virus anaerobico, ma i virus possono anche mutare, quindi Ebola potrebbe diventare aerobico? Guardi, quando lei dice aerobico mi immagino che voglia intendere che si possa trasmettere. Sì, naturalmente, naturalmente. Io credo che nessuno lo può dire, il virus esiste anche nella saliva, quindi è possibile che possa essere trasmesso perlomeno a breve distanza anche per via aerea, però non credo che abbia la possibilità di trasmettersi a lunga distanza. Ma perché i cadaveri sono altamente infettivi? Beh, perché i cadaveri hanno tutto nei loro liquidi biologici, quando tutto è esploso, il soggetto purtroppo è morto, il virus è dappertutto, quindi certo. Non si può e non si deve toccare. Dottor Cortese, senta, il vaccino è in fase di sperimentazione su volontari umani, come procede la sperimentazione? Va bene, direi, abbiamo, come lei avrà sicuramente sentito, tutto quello che normalmente si fa in moltissimi anni si sta comprimendo in pochissimo tempo. Ma quando sarà pronto il vaccino? Il vaccino che è oggi negli esseri umani verrà testato per la sicurezza, cioè per la mancanza di effetti collaterali, cosa che noi sapremo con abbastanza certezza entro certamente prima della fine di quest'anno. E poi il vaccino sarà disponibile per essere amministrato alle popolazioni a rischio, cioè quindi in Africa, africane, per certo. Una valutazione della sua efficacia. Certo, quindi questo avverrà nei primi mesi del 2015. E quanto costerà una dose di vaccino? Non ho la più pallida idea, noi siamo dei collaboratori scientifici al progetto, abbiamo inventato il vaccino ma non lo vendiamo, non lo produciamo per commerciarlo. E su quante persone state facendo la sperimentazione? saranno alla fine dell'anno, saranno oltre 100 pazienti soggetti volontari sani in Europa, e poi probabilmente bisognerà continuare questa sperimentazione nei soggetti a rischio, cioè quindi nelle aree colpite, probabilmente centinaia. Questo dipenderà molto dai risultati. Per potermi dimostrare l'efficacia del vaccino c'è bisogno di abbastanza numeri per poter dire ecco, qui ha funzionato e qui no. Dottor Cortesi, senta, Okairos, che sviluppa il vaccino, è stata comprata dalla Glaxo per 250 milioni di euro. Lei ha smentito la notizia, mi pare, secondo cui la Glaxo era in trattativa con l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per la fornitura di 1 milione di dosi di vaccino. Non è vero, quindi? Per come è stata riportata dalla stampa, c'era scritto che l'OMS aveva direttamente commissionato alla Okairos 1 milione di dosi. No. Ciò non è esatto. Anche perché voi siete Glaxo oramai. Noi abbiamo venduto i diritti commerciali, ma siamo una società indipendente che lavora con la Glaxo sulla base di un contratto. Ho capito, ma insomma, se però la sperimentazione andasse a buon fine, sarebbe uno scenario ragionevole questo. Ma direi uno scenario ragionevole sarebbe di fare milioni di dosi, e questo che appunto, sì, questo naturalmente. Ma questa è la grande, questa è la più grande sfida, perché noi siamo in grado di produrre decine di migliaia di dosi, ma non abbiamo ancora un processo per poter produrre in tempo ragionevole milioni di dosi. Su questo si sta lavorando intensamente. Dottor Cortesi, perché Ebola fa così paura? Non sarà poi una nuova mucca pazza? Beh, direi che i numeri purtroppo dimostrano che non si tratta di una mucca pazza. Ebola sta ammazzando migliaia di individui, e soprattutto in un modo crescente, inarrestabile. La mucca pazza è una malattia estremamente rara, anche se ovviamente gravissima, e quindi siamo di fronte a due fenomeni medici e epidemiologici totalmente diversi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. In 30 anni che lavoro nel settore della sanità pubblica, l'unica cosa paragonabile a Ebola è stata l'AIDS. Dobbiamo lavorare ora per far sì che questo virus non sia la prossima AIDS del mondo. Ecco, era Thomas Frieden, il direttore dei centri di controllo e prevenzione negli Stati Uniti, la massima autorità sanitaria in America. Con il ministro Lorenzin, buongiorno. È d'accordo con le affermazioni di Frieden? Da un certo punto di vista è anche più drammatico, perché l'AIDS ha un'incubazione di diversi anni, tant'è vero che uno dei problemi in Africa è stato proprio quello di una mancata percezione da parte di una almeno porzione della popolazione di una malattia che si sviluppa in così lungo tempo, mentre Ebola si sviluppa in pochissimi giorni. Ecco, ma l'Italia è a rischio contagio oppure no? Perché se ne sentite di tutti i colori. A rischio contagio proprio no. Possono esserci dei casi, come in tutta Europa, di importazione, nel senso noi possiamo andare a prenderci dei cooperatori che purtroppo potrebbero sviluppare la malattia, oppure ci può essere qualche operatore che tornando dal West Africa sviluppa il virus. Senta cosa ha detto Ranieri Guerra, il direttore generale della prevenzione sanitaria del suo ministero, a Matrix rispetto al potenziale vittima italiana di Ebola. Dal punto di vista statistico e dal punto di vista analitico è importante sapere che valutazione fate al Ministero della Sanità. Come dicevo, non possiamo assolutamente escluderlo, è molto probabile, diciamo che è possibile, può darsi. È molto probabile, la cosa senza voler anticipare questo, siccome lei rappresenta il governo, le dice è molto probabile, addirittura possibile. Quindi molto probabile, addirittura possibile, mi sembra un'affermazione forte. Beh, diciamo che statisticamente tutti i paesi europei che hanno operatori lo mettono in conto, sì. Nel senso che noi passiamo da un virus che aveva qualche centinaio di casi, che poi adesso si sta sviluppando a migliaia, dove è previsto un picco epidemico di 20.000 casi tra poche settimane, e dove prima c'erano ad esempio soltanto 150 cittadini italiani residenti sul territorio. Nelle prossimi mesi ci saranno migliaia e migliaia di europei, americani americani, soltanto l'esercito, 3.000 americani e 750 inglesi, faccia un po' lei, ci può essere una possibilità, non certo. Si può escludere, non ecco. Si può escludere, sarebbe disonesto. Sì. Dico, no? Ministro Lorenzin, lei ha aggiornamenti, appunto per essere onesti, sulle condizioni di salute del medico che si è spontaneamente messo in quarantena allo Spallanzani? Abbiamo fatto il comunicato stampa pochi giorni fa per la sua uscita, ha finito la quarantena e sta bene. Ecco, dei due casi di cui si era parlato che sarebbero stati trasferiti allo Spallanzani, è vero o no? No. No. Sono tutti falsi allarmi, falsi cosa allarmi. Che fa comprendere la tensione che c'è. Esatto. Ecco, ma come fate in concreto a controllare i movimenti di tutti i volontari medici che operano le aree colpite dall'epidemia? Per questo io ho chiesto questa commissione straordinaria a Bruxelles la scorsa settimana, è un coordinamento dei controlli negli aeroporti tra i paesi europei, innanzitutto dagli aeroporti in uscita, quindi rafforzare i controlli negli aeroporti nel West Africa, lì è proprio diciamo, l'imbuto da cui partono, anche con una commissione diciamo, esterna fatta da medici provenienti direttamente dalla Commissione europea per avere la garanzia tramite questionari, tramite visite, tramite anche una moral suasion nei confronti dell'ONG presenti che nessuno parta prima dei 21 giorni di incubazione della malattia. Ministro Lorenzin, avete dichiarato che con i tagli lineari alla sanità richiesti da Renzi era a rischio anche il sistema di controlli sanitari di porti e aeroporti. Avete trovato una soluzione? Ho avuto 50 milioni di euro in più nella legge di stabilità, sia per rafforzare questo fine, esattamente, sia per rafforzare i controlli degli USMAF, cioè dei nostri uffici nei porti e negli aeroporti, con rafforzando il personale medico, sia anche per rafforzare le posizioni dello Spallanzani. Ecco, il segretario nazionale, signor ministro, del sindacato infermieri, ha dichiarato che gli infermieri non sono adeguatamente preparati per affrontare casi di Ebola. Se arrivasse un malato di Ebola in pronto soccorso, cosa accadrebbe? Beh, innanzitutto non tutti devono trattare il caso di Ebola, ma chi tratta l'alto contenimento. Se c'è una persona a rischio, come è già successo in questi mesi, la persona è stata isolata e questo è avvenuto in diversi ospedali italiani e poi è intervenuto lo Spallanzani. Quindi noi abbiamo una procedura, un protocollo che deve essere rispettato. Però a questo proposito io ho fatto inserire quest'anno nei corsi di formazione per gli operatori sanitari e per i medici anche corsi per l'alto contenimento. Ecco, ma quali strumenti hanno per capire immediatamente che si tratta di Ebola a un pronto soccorso? Beh, innanzitutto si presenta una persona con la febbre, con i sintomi, che dice di provenire da uno di questi paesi o di essere stato in contatto, perché non è che quello tutti quelli punto, che hanno la febbre, certo. Esattamente. Beh, bisogna fare innanzitutto un'intervista ed avere la possibilità di poterlo visitare schermati. E per questo noi abbiamo anche chiesto di rafforzare i questionari e le procedure di contatto anche da parte delle persone che viaggiano e che devono sapere che possono essere incubatori di una malattia. Sì. Ma comunque noi stiamo parlando di persone che provengono certo. da West Africa e che sono stati a contatto sì. con malati e quindi persone che già hanno loro, una loro formazione. È molto più importante l'attività di contatto delle varie ipotetiche tracce. Ecco, e su questo i nostri uffici già lavorano. Non abbiamo avuto nessun caso di Ebola, ma negli anni abbiamo avuto altri casi di malattie infettive e abbiamo sperimentato come realizziamo le quarantene e come contattiamo per esempio tutte le persone che quel soggetto con cui è venuto a contatto sia in aeroplano che nella vita comune. Signor Ministro, Carlo da Treviglio ci chiede: Ebola attacca gli animali domestici o no? Beh, non gli animali che abbiamo qui. Purtroppo in Africa Ebola, uno degli elementi di trasmissione sono le scimmie e i ratti, i pipistrelli che le popolazioni mangiano oltre a viverci insieme. Ecco, Salvini, segretario della Lega Nord, ha scritto su Facebook che il governo italiano dorme e Mare Nostrum e il suo succedaneo è una follia vista l'emergenza Ebola. Cosa risponde? Beh, che il governo italiano non dorme, ma noi abbiamo effettuato dal 21 giugno giugno a due settimane fa, dico due perché era l'ultimo dato aggiornato che avevo, più di 80.000 controlli in mare, parlo di controlli sanitari, non di controlli di altro genere, a bordo delle navi effettuati dai medici del Servizio Sanitario Nazionale e dai medici della Marina. Io ho chiesto la convocazione di un'unità di crisi proprio per cooperare insieme agli altri ministeri in modo più forte adesso per il coordinamento, ecco, su Frontex. Signor Ministro, un'ultima domanda da Mario Secchi. Buongiorno. Allora, buongiorno. Non c'è il rischio di sopravvalutazione? Assolutamente sì, ma è meglio sopravvalutare che sottovalutare. Quello che non bisogna fare è avere invece un allarmismo che crei un panico inutile che ci impedisce poi di operare in modo razionale. Grazie signor Ministro. Grazie. Buon lavoro. Padre Giulio Albanese, comboniano, giornalista, esperto di Africa. Ecco, tu hai conosciuto Ebola dall'inizio e dall'interno. È davvero la nuova peste in Africa? È davvero una sciagura, nel senso che sta creando una vera e propria sindrome dal punto di vista psicologico, spirituale. La gente in molte zone del continente è davvero terrorizzata. Questa volta, soprattutto guardando al contesto dell'Africa occidentale, non foss'altro perché lì questa pandemia va avanti, è bene ricordarlo, dall'inizio dell'anno, praticamente dal mese di gennaio. Ecco, eppure in Africa ci sono milioni di morti per tubercolosi e per malaria. Perché non sono un'emergenza come Ebola? Ebola terrorizza innanzitutto e soprattutto per le sue modalità aggressive, per il fatto che comunque non esiste ancora un vaccino degno di questo nome. E poi soprattutto perché dal punto di vista, come dire, soprattutto guardando al contesto africano, non vi è un sistema a livello infrastrutturale che possa garantire il diritto alla salute della gente. Ecco, ma c'è una caratteristica specifica che dovrebbe avere la ricerca medica per le malattie tipiche dell'Africa? Guardi, io dico sempre che il vero problema della medicina tropicale, non dimentichiamo che Ebola rientra in questo contesto, è la cosiddetta lotta contro la povertà. E sì, perché di fatto, se uno ci riflette bene, si tratta innanzitutto e soprattutto di una manifestazione, di un sintomo della situazione di degrado di molte periferie del mondo, proprio per usare il linguaggio di Papa Francesco. Ecco, padre Albanese, abbiamo sentito sul suo profilo Facebook un anchorman di Fox che sostiene che su Ebola c'è una forzatura mediatica fortissima. Sentiamola. Innanzitutto sappiate che, per quanto ne sappiamo ad oggi, non dovreste affatto essere preoccupati di Ebola. Ve lo prometto. Da nessuna parte negli Stati Uniti è in corso un'epidemia del virus. Abbiamo invece due operatori sanitari che hanno contratto la malattia da un malato sul punto di morte. Questi sono stati isolati. Non ci sono informazioni che ci dicono che il virus si sia espanso su qualcun altro nella popolazione. Dovete considerare che in mezzo a tutto questo c'è anche la politica. Con le elezioni del medio termine che si avvicinano, il partito al potere ha bisogno di mostrare di avere la situazione sotto controllo. Il partito opposto deve dimostrare che c'è una debole leadership. Il miglior consiglio al momento per voi e la vostra famiglia? Fate un vaccino contro l'influenza. A differenza di Ebola, l'influenza è facilmente trasmissibile. Secondo la sua esperienza, è vero quello che dice questo anchorman? Ha perfettamente ragione, ma devo dire che la colpa è anche nostra, sì, di noi giornalisti. Perché? Non foss'altro perché abbiamo mandato legioni di giornalisti negli Stati Uniti a seguire questa vicenda, o meglio comunque il fenomeno così come viene descritto dai media negli Stati Uniti, e non ci stiamo, a mio avviso, interessando in maniera perspicace, intelligente, di quelli che sono effettivamente gli effetti di questo fenomeno virale nelle Afriche. Sembra quasi che vi sia una sorta, come dire, di differenza tra quello che è il contesto occidentale e quello africano. La logica è quella dei due pesi, due misure. E questo credo che non sia assolutamente corretto, anche perché comunque la dignità della persona umana è sacrosanta, indipendentemente dal fatto che uno sia nero o bianco. Senta, padre Albanese, senta cosa ci dice un'esperta di sicurezza a proposito dell'azione americana in Africa. Dottoressa Tapero Mero, sul Washington Post c'è scritto che la scelta di Obama di inviare 3.000 soldati in Africa occidentale, si dice per curare Ebola, in realtà sia per rimettere le mani sul territorio, cioè per controllare di nuovo l'Africa. Beh, sicuramente a fronte di quello che è successo negli ultimi due anni, non solo in Siria ma anche in Iraq, quindi la degenerazione, la morti, devastazione, una guerra, un dispiegamento di 3.000 militari sul territorio africano, di fronte è vero un'emergenza umanitaria come quella, ma insomma abbiamo visto che diciamo che Ebola potrebbe essere un bel pretesto. Ecco, diciamo che dà adito a questa interpretazione. Ecco, anche Ebola rientra in qualche modo nello scontro tra Cina e Stati Uniti in Africa o è solo un problema medico? Sottoscrivo quello che ha detto la dottoressa poc'anzi. Certamente c'è una strumentalizzazione, inutile nasconderselo. E sappiamo anche che gli Stati Uniti in questo frangente, in una maniera o nell'altra, devono consolidare la loro presenza militare nel continente africano. Diciamo che si tratta di una forza, tra virgolette, di deterrenza nei confronti dell'impero del drago, che come sappiamo ha colonizzato in questi anni il continente africano. E quindi Ebola può essere uno strumento. Può rappresentare il pretesto. Mix 24. Blue skies over my head. Give me another reason to get out of bed. Blue skies shining my face. Give me another woman to take her place. Metropolitana, mi pare che non hanno paura dei contagi. No, sulla metropolitana, poi ci si mette le mani in tasca, appollaiati ai corrimano poi della metropolitana, tra quegli anfratti di giacche e pantaloni. Ci sono tutte le cose che si perdono e che poi si ritrovano. E poi tra le tasche c'è qualcosa che resta appiccicata alla mano. Ed è come un'onda che travolge e ci travolge. È come la distanza tra le dita di una mano, stretta alla maniglia di quel via vai, c'è la stessa vicinanza tra la vita e l'ora del destino. Si entra, che deve fare ancora giorno, e si resta per vivere la notte della propria solitudine. Ain't got no money. Cupboards are bare. No cigarettes and the kids got nothing to wear. 800 24 00 24, numero verde, l'SMS 349 238 6666. Vediamo cosa bolle nella pentola di Mario Secchi. Eccoci qua. Nessun capitano della Marina Sovietica ha mai affrontato una decisione simile. Il destino del sommergibile, dell'equipaggio, il destino del mondo appesi allo stesso filo. Morirei piuttosto che abbandonare il mio equipaggio. Risalire in superficie! 960! Io adoro gli svedesi. Perché? Perché ci stanno regalando una storia meravigliosa. Si sono messi a fare caccia ottobre rosso. Adesso la seguiamo tutti i giorni perché vediamo se lo trovano questo sommergibile. Vediamo se trovano il sommergibile russo. Loro hanno insomma un piccolo arcipelago, 30.000 isole in Svezia. Quindi vediamo che cosa succede. Hanno chiuso lo spazio aereo dopo aver cominciato le ricerche da un paio di giorni. Al quinto giorno, mi pare siamo adesso, hanno deciso che bisogna chiudere anche lo spazio aereo per cercare questo sommergibile. Ma perché lo spazio aereo per cercare il sommergibile? E perché lo cercano anche attraverso sensori dall'alto e così via, immagino. E soprattutto per evitare incidenti, come suol dirsi. Sai, quando girano molte armi in un posto, poi alla fine c'è sempre qualcuno che spara, funziona così. Quindi anche per ragioni di precauzione. Comunque, storia fantastica, la reazione di Mosca la vuoi conoscere? Dimmi. Nessun sommergibile russo ha mai attraversato le acque della Svezia. E quindi, stiamo tranquilli così. Vabbè, in attesa di trovare il sommergibile russo. Pensa se non lo trovano. Sarebbe forte. Prepari un dolce? Sì, di mirtilli. Vicina, ai nani piacciono le torte di mele. Fatte con mele come questa. Oh, è magnifica. Sì. Ma se tu sentissi il sapore. se voi sentiste il sapore della mela, quanto è buona la mela del peccato, si anche mangia del piacere, oramai, ma mela. Noi ci occupiamo della mela elettronica, cioè di Apple. Per ora hanno ragione loro, ragazzi, eh? Faranno anche un sacco di modelli, avranno diversificato forse un po' troppo. Però, perché dici che hanno diversificato? Perché ai tempi di Steve Jobs c'erano due iPad, mo ce ne sono sei, non lo so, può darsi che comunque abbiano ragione loro. Sicuramente adesso hanno ragione loro. Hanno venduto 39.3 milioni di iPhone nel terzo trimestre del 2014, guadagni netti per 8.47 miliardi di dollari, ricavi saliti del 12%, oltre 42 miliardi di dollari, che dire. Hanno cominciato anche in ritardo le vendite di iPhone in Cina, il mercato, i nuovi non sono saturi, ovviamente. Questa It's the Economy Stupid era un vecchio slogan di una campagna elettorale di Clinton che vinse ovviamente le elezioni. Quindi It's the Economy, vediamo. Vediamo un po' come va. Intanto sentiamo questo bel salamino di Pietrangelo. Allora, c'è lui che risulta perfino bello. Chi? Si sorvola sul suo girovita, si soprassiede sulla faces sinusitale, perché tutto preso, proprio tutto nasale, tutto chiuso. Poi comunque lo sui oltretutto Barbara D'Urso ha detto che è meraviglioso, che è bellissimo, che è il ragazzo ideale per con cui andare al cinema. Si dice quelle cose meravigliose. Poi viene iscritto alla democrazia estetica del leader giovane e bello, ma più che macio democratico, politico dell'apparenza più che della sostanza, lui è sempre più il caro leader al modo di Kim Jong-un o Cincillà che dir si vogliano. Ricordo bene c'ha i missili e lui c'ha le madamine, le ministresse. Allora, sempre missili sono. Insomma, cosa è successo? Che finalmente è stato partorito, grazie al genio di Paolo Händel, il primo cinegiornale. Lo vogliamo ascoltare? Il cinegiornale dell'era Renzi, col miracoloso progetto di riforma denominato Jobs Act, l'Italia cambia verso. La nuova riforma del lavoro piace a tutti, da Sergio Marchionne a Paperon de Paperoni. Purtroppo c'è sempre qualcuno emarginato dal corso della storia che si diverte a fare il bastian contrario, la CGIL, che si è detta pronta a chiedere ai lavoratori italiani di scendere in strada. I lavoratori all'unisono hanno risposto: tranquilli, in strada ci siamo già da qualche anno. Il nostro bene amato Presidente del Consiglio, nonché audace lupetto e capo scout Matteo Renzi, procede spedito sulla via delle riforme. Tra i tanti straordinari vantaggi del Jobs Act vi è una grande conquista epocale: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, molto meglio che i diritti gli vengano centellinati col contagocce e che se li sudi anno dopo anno. Il lavativo. Complicata però la vita dei comici oggi. Hai visto, Renzi? Non ha bisogno come ridere. Kim Jong-un Cincillà che dir si voglia del bastone, appare, riappare. Vabbè, bravo Händel, insomma, sì, però, si può fare, insomma, sono fare in crisi, diciamo che i comici sono in una stagione di crisi, perché non è semplice trovare la chiave. Intanto Giovanni da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, io più che altro volevo chiederle se la cosa era palese solo per me o se era un pensiero comune, che il discorso di mandare 3.000 Marines è chiaro che lo scopo è quello di mettere le mani sul territorio, perché la storia insegna che comunque gli americani non hanno mai fatto niente per niente, solo per solidarietà, l'hanno fatto con noi dal 43 al 45 con la storia di liberarci dai nazisti. Beh, la storia di liberarci, comunque una mano ce l'ha andata. Che ce l'abbiamo ancora adesso quelle basi, perché in Ruanda quando si ammazzavano, che ci sono stati 1 milione di morti in 90 giorni a macetate. Senta, però, signor Giovanni, se lei ha sentito la Tappero, la nostra esperta, ha detto qualcosa di analogo a quello che ha detto lei. Grazie. Sara, tu che cosa stai pensando? What have we done to the world? Look what we've done. About all the peace that you pledged your only son. What about flowering fields Michael Jackson, un cantante pop, ci chiedeva: ma che cosa state facendo al mondo? Dove sono finiti i fiori? E noi tranquilli dicevamo: Michael, ma stai tranquillo, noi paghiamo apposta le tasse per dare i soldi alle pubbliche amministrazioni, così loro penseranno ad aggiustare tutti gli errori che abbiamo fatto nel passato, no? Vi chiedo, Mario, Pietrangelo, Giovanni, voi sapreste dire quanto avete pagato, per esempio, nel 2012 per le imposte ambientali, cioè quelle imposte che dovrebbero essere usate, non so, per evitare che mentre stai facendo un picnic ti straripi un fiume, oppure che mentre stai guidando in macchina con la tua fidanzata ti travolga il costone di una bellissima collina? Allora, voi sapete quanto avete pagato di imposte ambientali nel 2012? Beh, non è facile ricordarselo, e anzi, forse è meglio dimenticare. Tu, Mario, lo ricordi? Sì, Marco, io mi dimentico tutto. Ecco, male. Pietrangelo se lo ricorda sicuramente quanto ha pagato. No. Male. Per fortuna che ce lo dimentichiamo tutti. L'ha dimenticato subito. Per fortuna che c'è la CGA di Mestre, che si mette lì tutta tranquilla con la calcolatrice alla mano e fa i conti anche per noi. Nel 2012 abbiamo pagato 47,2 miliardi di euro, però solo lo 0,98% è stato usato per attività di salvaguardia ambientale e ce ne siamo accorti. Italia sì, Italia no, Italia buon, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando ratatatata, se c'è la partita, il comando non insomma, ci sta. Insomma, questi 463 milioni di euro spesi per la salvaguardia dell'ambiente non sono stati molti nel 2012. Beh, una vergogna, dai. Beh, una vergogna vera. Se, canzoniere. Questo giorno comai cede alla sera, festeggiar si costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. 800 24 00 24, questa volta bisogna indovinare. Se non indovinano, se lo meritano, Renzi. Sì. 349 238 6666. L'SMS, sto cercando di fare la voce come quella di Sara, no? Perché scrivono: che voce sexy che ha. E che vabbè, ha Sara. Quella è donna, che c'entra? Vabbè, ma insomma, proviamo a coinvolgere anche noi il nostro pubblico. Pubblicità. Mix 24. Allora, Mario, ancora una bolla. Piacerà a Sara. Ah. Beh, insomma, questo è Lenny Kravitz, American Woman, un pezzo bellissimo per dire che cosa? Che c'è uno che prende la super paga e poi, insomma, disquisisce un po' così a cappero sulle paghette degli altri, anzi delle altre. Beh, insomma, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha una piccola retribuzione, caro Giovanni, sai di quanto? Di quanto? 84 milioni di euro. 84 milioni di euro, ha detto, perché sì, non si sente. 84 milioni di euro. Vabbè. Signore. Vabbè, e insomma, quasi 60 sono in azioni che saranno monetizzate. Vabbè, magari in crolla sette il titolo, anni, non si sa. Però Nadella è quello che ha consigliato alle donne di non chiedere aumenti di stipendio, e non solo, ma per soprammercato ha anche detto, e le ha stigmatizzate dicendo che le loro richieste sono originate dal bad karma, dal cattivo karma. Ora, questo qui da 10 giorni non fa altro che scusarsi perché l'ha detta grossa. Il problema è che per dirla così grossa tu devi averla pensata. Sì, caro mio. Grossa. 84 milioni, prendete nota. Salamino. Di buon mattino c'è il trenino che va. Matera, Matera, capitale della cultura, la città dei sassi, magnificata dal grande cinema Mel Gibson con The Passion su tutti. Per le ferrovie dello Stato non esiste. Questa è una storia curiosa, molto bella, raccontata da Fabio Tonacci su Repubblica. Ovviamente la stazione c'è, non però il binario. C'è il parcheggio e le sterpaglie crescono rigogliose davanti alle pensiline. I lavori sono iniziati nel 1986, però non ci sono né rotaie né cavi elettrificati. Vabbè, quindi è tutto a posto. Assente la ferrovia dello Stato, ci sono però 13 treni delle FAL, che sono le ferrovie Appulo-Lucane. Vanno su un binario a scartamento ridotto e vanno da Bari a Matera, fanno un'ora e 40 minuti per 70 chilometri ed è anche chiamata la ferrovia 40 minuti per 70 chilometri. E perché non hai preso i treni in Sicilia? Dai, guarda, non ho voluto, in Sardegna. Non ho voluto infierire. Ed è chiamata la ferrovia Calabro-Lumaca. Non ci sono servizi di domenica e nei giorni festivi, giustamente. La gente si riposa. Tonacci scrive: la capitale europea è fatta. Il problema è portarci l'Europa, ma io prima di affidarvi alla canzone che ben spiega questa condizione della capitale europea, voglio qui ricordare i versi di Ennio Flaiano. Alle 5 della sera, nella piazza di Matera, da una 1100 nera scende Giovannino Russo del Corriere della Sera. Che successo, che carriera! Da una 1100 nera. Ecco la canzone adatta. Il treno se ne va. Cin cin pom pom, cin cin pom pom, cin cin pom, baci. E ci stava anche qua. Bella, ci stava anche una canzone di Pat Metheny qua, l'estro di nome. Davide da Pordenone, Davide. Pronto? Salve, salve Davide. Salve, salve. Sei per strada? In macchina? Sì, sono in macchina. Allora, hai indovinato il nostro canzoniere? Beh sì, direi che era piuttosto facile. Questa volta, Pietrangelo sta esagerando adesso nella facilità, ma perché facile. Non abbiamo risposte? È perché quando abbiamo fatto altri facili non sono stati indovinati, adesso... E allora proviamo a vedere se l'hai indovinato. Allora, è il passero solitario di Giacomo Leopardi. Certo, giusto, bravo. Ma dove stai andando? Sto andando a Trieste. A Trieste da Pordenone? Da Pordenone, sì, non è una lunga strada. No, c'è. Quanti chilometri sono? Un centinaio, più o meno. E che mestiere fai? Dirigo una fondazione che si occupa di autismo. Questo è importante. Noi abbiamo Nicoletti che si occupa molto di questo problema. Sì, lo so. Va bene, allora buon viaggio. Buon viaggio. Sara, tu avevi una cosa che ti ha colpito ancora? Sì, dico, ma mi aspettavo che la tirasse fuori Mario. Cioè, Monica Lewinsky è su Twitter. Pazienza. No, ho capito che ce ne dovremmo fare una ragione. Però solo scrivendo "Here we go", 13.900 follower. Mi vengono un po' dei dubbi su Twitter. E poi soprattutto Twitter c'è probabilmente, no, la Clinton si candida, ok? E quindi secondo voi saranno dei cinguetti oppure sarà questo? Come la vedi la Lewinsky che commenta la campagna della Clinton? Ci farà dei soldi, ha campato sempre di questo, tanto, no? Piano piano. Solo questo l'ha fatta campare. Intanto noi, dopo il giornale radio, racconteremo nell'anniversario dei 50 anni dell'autostrada del Sole, racconteremo con Marina Milone la storia di questa opera che ha cambiato l'Italia. Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, l'anniversario dei 50 anni dell'Autosole, cosa significa per voi? Innanzitutto è un atto doveroso di celebrazione di un'opera importante per il paese, celebrazione di chi l'ha fatta e purtroppo anche chi ha perso la vita per farla, e non sono pochi, ma è anche l'occasione per guardarsi un po' allo specchio, per capire quanto siamo differenti da quell'Italia. Guardando come operava l'IRI in quei primi anni degli anni 50, ci si rende conto che il modo di operare era esattamente in linea con quello che farebbe una società privata in termini di capacità di prendere decisioni, velocità. Poi nel corso degli anni, a partire dagli anni 70, è stata tutta un'altra storia. Impresa pubblica ormai vuol dire una cosa ben diversa da quella che era Autostrade in quegli anni 50. Però Mario, è interessante questo grande tributo di un top manager come Giovanni Castellucci all'IRI degli anni 50 e 60. Giovanni, la riflessione, ne parlavamo l'altro ieri insieme al telefono, appunto. Ti ricordi l'altra sera? Qua bisogna aprire un grande dibattito nel paese, se ne ha voglia di discutere del proprio futuro, sull'IRI, cioè su che cosa è stato e su che cosa potrebbe chi essere. La fece l'IRI, nuova, chi la fece, che non mi ricordo. Beneduce. Beneduce. Beneduce. E che anno era? Che anno era? Ma era 20, non so, che ora sì, non mi ricordo l'anno esatto, proprio più o meno. No, Non so se è stata fatta dopo la liberazione. Non so se è stata fatta grande lì o dopo, ma insomma è stata fatta quindi da non Beneduce. L'ha fatta Renzi. No, l'ha fatta Beneduce. Forse Renzi, chi era il presidente forse del Consiglio? Renzi la rifarà. Sai Giovanni, Renzi, che ho lanciato una provocazione l'altro giorno, ho detto che se continua così, noi certe produzioni strategiche dobbiamo anche immaginare di nazionalizzarle, anche solo temporaneamente. E chissà, faremo una puntata su questo, perché Mario. Insomma, secondo me certe c'è cose vanno ripensate, il tema, il esiste, tema c'è, sì. C'è tutto. E per finire, a grande richiesta, una canzone di Tenco. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata con